Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella commenta le storture dell'università e dei concorsi pubblici. Uno pari. Se era questo l'obiettivo che si proponeva, rifiutando persino l'astensione alla riforma universitaria di Maria Stella Gelmini, la sinistra, con l'eccezione di Nicola Rossi, può dirsi soddisfatta. Un dispetto a testa. Quasi un decennio dopo la scelta sventurata della destra di mettersi di traverso al tentativo di Luigi Berlinguer di introdurre nella scuola il merito attraverso il concorso, bollato come il concorsaccio e accanitamente osteggiato da Forza Italia, ANCCD, perché non si poteva stabilire per legge che il 20% è bravo e gli altri no, l'opposizione ha reso pan per focaccia. Con una serie di motivazioni: si può fare di meglio, i criteri sono discutibili, si rischiano ingiustizie, ci vuole ben altro, non dissimili da quelle usate a suo tempo dagli avversari. Certo, chi da anni si batte contro le storture del mondo universitario vede nella svolta di oggi, insieme a cose da verificare nella pratica ma sulla carta positive e agognate, come l'aumento dei finanziamenti agli atenei virtuosi e il taglio di risorse a quelli spendaccioni, è inammissibile che l'indennità di assistenza ospedaliera vada allo 0,1% dei dipendenti dell'Università di Trieste e all'83% di quelli della Seconda Università di Napoli, bidelli e bibliotecari compresi, diverse incognite. È possibile, ad esempio, che l'anagrafe delle pubblicazioni, che dovrebbe servire a valutare i docenti, si risolva in una furbata burocratica con la moltiplicazione di libri mai editati, mai stampati e mai letti, ma solo timbrati in questura. Ed è possibile che certe cordate di baroni che oggi pilotano i concorsi, sconvolte dal sorteggio, continuino come prima con la semplice variante che i patti scellerati saranno stretti dopo invece che prima. Può darsi, e sarà bene stare in guardia, ma di sicuro, come dice un antico adagio popolare valido oggi esattamente come nel caso del concorsone berlingueriano, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. C'è di meglio? Sicuro. Finché non sarà fatta la scelta netta di abolire il valore legale del titolo di studio nei concorsi pubblici, il rettore della più scalcagnata università del pianeta sarà autorizzato a ripetere, senza arrossire, quanto sosteneva Francesco Ranieri, un professore di ragioneria che a Villa San Giovanni aveva intitolato un ateneo a se stesso. Perché uno dovrebbe andare a studiare alla Bocconi quando con 15 euro al giorno può ottenere una laurea qui? Senza un colpo di scopa che spazzi via il ridicolo egualitarismo delle lauree, ogni riforma è monca. Ma nella situazione data, in cui perfino un concorso truccato sanzionato fino in Cassazione non è stato annullato dal Ministero perché l'annullamento di un atto non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, dire di no e basta non ha senso. Alla polemica sui concorsi universitari si è accavallata quella sulla prova d'accesso alla magistratura, svolta alla Fiera di Rho, perché nessun'altra sede era in grado di accogliere migliaia di aspiranti giudici. Denunce a raffica, blog strapieni di racconti sconcertanti, imbarazzi ministeriali, sospetti, come nel 92, quando ogni compito fu corretto in 111 secondi, surreale, o come nel 2003, quando una commissaria d'esame affaccendata ad aiutare una raccomandata fu tradita dalla fotocopiatrice che vomitò centinaia di copie della sua marachella e in più saltò fuori che un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali, al di là di errori da sommari come riscuotere senza C o laddove scritto L' a dove, venivano come gran parte degli esaminatori dall'area della Corte d'Appello di Napoli ed erano 8 volte più di quelli del Nord-Est. Nessuno dei principi della Costituzione è stato tradito quanto l'articolo 97. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Serio, intendeva il legislatore. Non addomesticato, serio. Non succede da tempo nella scuola dove la prima sanatoria, in eccezione alla regola del concorso, fu firmata da Vittorio Emanuele II nel 1859. Non succede nei comuni, nelle regioni, nei ministeri pieni zeppi di precari via via stabilizzati. Non succede al Quirinale, dove Napolitano si è impegnato al ripristino d'un principio non più rispettato dal 1963, quando erano ancora vivi Churchill e Harpo Marx. Non succede talvolta nei TAR, dove i trombati in un concorso sospetto potrebbero finire davanti ai giudici promossi da un concorso sospetto. Non succede negli ospedali, dove il peso dei partiti è ammorbante e la cronaca registra episodi esilaranti, quali quello di tre chirurghi che, chiamati a dimostrare a Genova la loro perizia col bisturi simulando un'operazione su una donna, fecero la loro prova sul cadavere di un uomo. Dicono tutti oggi davanti agli scandali che non succederà più. Già sentita. Ma c'è da sperarlo lo stesso. Da dove può partire la ricostruzione di uno Stato se non dalla selezione di chi deve ricostruirlo? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Gian Antonio Stella, La malattia dei concorsi, dal Corriere della Sera del 1 dicembre. La protesta di Ilaria D'Amico contro l'aumento dell'IVA per le pay TV offre a Massimo Gramellini lo spunto per scrivere una divagazione di fantapolitica. Fu nella drammatica notte del 2 dicembre 2008 che il consiglio di amministrazione Sky prese l'unica decisione in grado di garantirgli la sopravvivenza: fondare un partito politico. Ilaria Parti, dal nome dell'onorevole D'Amico, candidata al Ministero della Difesa e contropiede. «L'Italia è il paese che amo», disse il presidente Murdoch, doppiato dal telecronista Caressa, ispirandosi a un format di successo degli anni 90, di cui aveva comprato i diritti. Il programma fu redatto da una squadra di esperti, guidata da Vialli e Topolino in quota Disney Channel. 1. Lotta all'ultima parabola contro il regime berluscomunista. 2. Più partite di calcio e film a luci rosse per tutti, anche gratis e a mezzogiorno. 3. Inaugurazione dell'Albino Leffe Channel, per sottrarre voti alla Lega. 4. Riduzione dell'IVA sulla pay TV allo 0,1%, pagabile in comode rate quarantennali. Un documento riservato suggeriva di concentrare gli sforzi soprattutto sul punto numero 4. Essendo le frequenze di destra tutte occupate, Ilaria Parti decise di schierarsi a sinistra, dove il segnale era debole, praticamente assente. Ottenne il sì di Rifondazione in cambio di un canale dedicato alle interviste di Gianni Minà, mentre per convincere Veltroni bastò garantirgli le repliche di Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, su Sky Classic. L'unico a tenere duro fu D'Alema. Lo dissi nell'autunno del 1993 e lo ripeto oggi. In Italia non può succedere che il padrone di una TV riesca a fondare un partito. Nota, tranne l'ultima frase, il testo è frutto della fantasia dell'autore. Letture di Radio 24. Sabrine Tenberken, cieca dall'età di 12 anni, ha costruito vicino all'ASA una fattoria per non vedenti dove ragazzi e adulti imparano il mestiere di allevatori e agricoltori. Ascoltiamo un passaggio dal suo libro Vedere con il cuore, dove Sabrine racconta com'è riuscita a superare uno dei tanti momenti difficili nella sua attività di educatrice. Improvvisamente l'atmosfera a scuola cambiò. I ragazzini erano malcontenti e tristi, si trascinavano con la testa a ciondoloni nel cortile, oppure se ne stavano seduti senza dire una parola. Momenti di svogliatezza c'erano sempre stati, per questo all'inizio non ci facemmo caso. Ma a un certo punto ci rendemmo conto che si stava andando troppo oltre. Così decidemmo di parlare a un gruppo di studenti. «Cosa c'è?» chiedemmo. «Azi», gemette Yudon, «è il futuro che ci preoccupa». «Il futuro?» si meravigliò Paul. «Pensavo che questo problema fosse stato risolto». «Il futuro è pieno di incognite», disse Nima. «Ma perché? Avevate tanti progetti». «Non servono a niente», mugugnò Bungzo. «Possiamo studiare finché vogliamo, ma alla fine ci ritroveremo a mendicare sul barcor». Bungzo deglutì. «Non voglio chiedere l'elemosina e voglio avere un tetto sulla testa. E allora l'unica alternativa sarà diventare una custode dei bagni pubblici». «Cosa?» Paul cercò di buttarla sul ridere. «Riuscite a immaginare Bungzo che fa la custode delle toilette? Sarebbe l'unica in tutto il Tibet a saper tenere la contabilità col computer e a intrattenere i clienti in tre lingue». Bungzo si mise a piangere. e solo in quel momento ci rendemmo conto di quanto fosse seria la situazione. Ci venne un sospetto. Chi vi ha raccontato queste cose? I ragazzini rimasero in silenzio, intimoriti. Poi Yudon parlò. Era stato Sang Po, l'insegnante di inglese, cieco anche lui. Qualche giorno prima aveva detto che non era giusto creare false illusioni ai ciechi, perché comunque sarebbero finiti in mezzo a una strada. Cos'era successo a Sang Po? Come poteva dire simili sciocchezze e demoralizzare in quel modo i ragazzi? Sang Po era arrivato da noi dietro raccomandazione di un oculista americano. Piaceva a tutti. Parlava un inglese fluente, teneva lezioni perfette e contribuiva a creare a Lang Dun un'atmosfera rilassata. Sang Po era diventato cieco qualche anno prima, in seguito a un incidente automobilistico. Ma non sembrava che la cosa l'avesse inacidito. Aveva avuto fortuna a non perdere la vita ed era felice di aver trovato un buon lavoro. Gli piaceva raccontare del suo periodo scolastico trascorso in India. Inventava storie affascinanti ambientate nella giungla con tigri, elefanti e altri animali che i nostri scolari non conoscevano. Ma a un certo punto, e ce ne rendemmo conto solo in quel momento, Sang Po aveva iniziato a demolire il morale dei ragazzi. Chi aveva grandi aspettative per il futuro veniva deriso davanti a tutta la classe. Yu Don e Kila progettavano di aprire una scuola serale per chi volesse esercitarsi nella conversazione in inglese. Sang Po aveva smontato quei progetti, le aveva umiliate davanti a tutti gli studenti. Aveva detto che dovevano smetterla di sognare, che i vedenti le avrebbero derise e in ogni caso non sapevano l'inglese abbastanza bene per realizzare il progetto, a dispetto di quanto dicevano Paul e Sabrier. Kila e Yudon, che vedevano i loro sogni annientati davanti a tutti, persero la fiducia in se stesse. Sang Po diceva anche che la scuola non avrebbe retto ancora a lungo e che stava pensando di aprirne una lui. Questo sconcertò ancora di più i bambini e i ragazzi e abbatté la fiducia che eravamo riusciti a infondere in loro. Le parole di Sang Po spaventarono soprattutto i quattro ragazzini che si stavano preparando a entrare nella scuola normale. Li invitò a bere un tè e spiegò loro quanto fosse scorretto da parte nostra mandarli via in quel modo. Perché insistono a farvi studiare quando sanno perfettamente che a noi ciechi non serve a niente? Tanto prima o poi finirete tutti a mendicare sul bar Cor. Kila ricordava perfettamente quel momento. Non avevamo più fiducia in noi stessi. Tutti gli anni trascorsi a studiare e a prepararci per il futuro erano stati inutili? Yudon e io ci siamo chieste spesso perché Sang Po ci avesse fatto questo. Forse era invidioso. A tutti noi piaceva studiare. Forse temeva che sapessimo l'inglese meglio di lui. Comunque sia, una cosa l'abbiamo imparata, che anche gli insegnanti possono dire sciocchezze. Era chiaro che dovevamo agire immediatamente e così nacque l'idea della fabbrica dei sogni. Chiedemmo ai ragazzi di sviluppare i loro sogni per il futuro. Non volevamo che per immaginare il futuro partissero da ciò che sapevano fare. Volevamo semplicemente che riflettessero su ciò che desideravano davvero. Avevano tempo una settimana per pensarci, dopodiché avrebbero dovuto raccontare il loro sogno a tutti gli altri studenti. Dovevamo immaginare il nostro futuro, ricordò Bung Zo, e in un primo momento la cosa non ci piacque per niente. Non volevamo pensare al futuro, temevamo il momento in cui avremmo dovuto lasciare la scuola. Tutti i nostri progetti si erano frantumati. Perché dovevamo sprecare una settimana a riflettere su qualcosa assolutamente privo di speranza come il nostro futuro? La fabbrica dei sogni si mise in moto a fatica. Nei primi giorni gli studenti se ne stavano seduti davanti alle macchine da scrivere Braille, sprofondati nei loro pensieri, e i fogli restavano bianchi. Poi, quasi inavvertitamente, lo stato d'animo cambiò e i ragazzi divennero di giorno in giorno sempre più appassionati e attivi, finché Lang Dun non cominciò a ribollire. Contagiati dalla fabbrica dei sogni, non solo gli studenti, ma anche i governanti, i cuochi, gli insegnanti e addirittura i bambini più piccoli cominciarono a sviluppare i loro sogni. Lavoravano febbrilmente per tutto il giorno. A volte restavano svegli anche di notte, seduti a letto a martellare sulla macchina da scrivere o a imparare a memoria le relazioni che avrebbero dovuto tenere. Alcuni scambiavano impressioni sui loro sogni. Altri li conservavano gelosamente come un segreto che avrebbero svelato solo all'arrivo del gran giorno. Finalmente ci ritrovammo tutti nella sala delle riunioni addobbata a festa per l'occasione. Gli studenti si gustavano l'atmosfera, ma anche i biscotti all'olio e il tè al latte. Era quasi come la festa di Capodanno, Tutti avevano preparato qualcosa. Alcuni tennero il loro discorso a braccio o leggendolo, altri avevano composto una canzone che ci cantarono o che ci fecero ascoltare registrata su una cassetta. La depressione che aveva dominato fino a qualche giorno prima era sparita. Tutti si sentivano liberati da un peso, ridevano e urlavano il loro entusiasmo di fronte ai sogni particolarmente fantasiosi. Tutte le relazioni furono accolte da ovazioni e nessuno venne deriso per averla sparata troppo grossa. Tutti volevano guadagnare tanto denaro da utilizzare per fare grandi cose. Alcuni volevano fondare scuole, orfanatrofi o ospizi. I progetti elaborati per guadagnare tanti soldi erano i più disparati. Tashi voleva aprire il più grande centro di fisioterapia di Lhasa. Bung Zo progettava uno studio intensivo dell'inglese o del cinese, per poi, come spiegò nella sua appassionata relazione, diventare traduttrice. «Diventerò un uomo d'affari», affermò Gien Zhen con sicurezza incrollabile. «Non so ancora cosa venderò, forse libri in braille, perché in fondo bisogna vendere i prodotti che ci piacciono e quando sarò ricco mi occuperò del finanziamento della nostra scuola». Per come conoscevamo Gien Zhen, con la sua intelligenza affilata e il fascino che dispiegava quando voleva ottenere qualcosa, non faticavamo a immaginarlo come uno scaltro businessman in giacca e cravatta. Paul e io ci vedevamo già nella sua anticamera per chiedere timidamente un finanziamento. A un certo punto si sarebbe aperta la porta, da cui sarebbe uscita la sua segretaria che con sufficienza ci avrebbe detto: «Ora il signor Gien Zhen ha tempo per voi». Kila sognava di andare in Europa e imparare molte lingue. «Racconterò dappertutto della nostra scuola. Voglio descrivere alla gente come viviamo in Tibet e svilupperò nuovi progetti per insegnare ai bambini ciechi in Tibet e in altre parti del mondo». L'apice di quella giornata fu toccato con le esposizioni di Norbu e Jampa. Norbu aveva composto una canzone, un lavoro imponente con tanto di tamburi, fanfare e impressionanti rumori di fondo, che forse erano semplicemente il fruscio del nastro. Su questa base c'era una sorta di cantilena rap in cui Norbu, con voce ritmica e cinguettante, declamava i propri progetti. Voleva imparare come si fa il formaggio, per poi aprire un'industria casearia. Con i soldi guadagnati voleva comprare una casa nuova per la sua famiglia e, naturalmente, fondare una scuola per ciechi. Jampa, il fratello di Kila, voleva costruire una sala da tè a Lhasa, sulla strada per Kathmandu. Doveva esserci un bel giardino con fiori profumati e alberi ombrosi. Doveva essere un luogo di convalescenza per chi soffriva di mal di montagna. Lui e il suo gemello Dorie, anch'egli cieco, avrebbero servito tè indiano al burro accompagnato da dolcetti. «I turisti, i contadini e gli autisti di camion verranno tutti da noi, perché avrà una cosa completamente diversa da tutte le altre sale da tè, e cioè...» Fece una pausa sapiente e tutti rimasero col fiato sospeso. «E cioè...» «Un bagno pulito». Dopo quella settimana, ricordava Kila, il futuro non ci apparve più minaccioso. A quel punto, alcuni di noi non vedevano l'ora di uscire e prendere in mano la propria vita. Certo, la scuola ci piaceva, ma era bellissimo elaborare i nostri progetti. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Sabrine Ten Berken, «Vedere con il cuore», Corbaccio Editore, 256 pagine, 16 euro.